Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di imprese e sindacati. Lo facciamo sulla base del libro Rivoluzione metalmeccanica, dal caso Fiat al rinnovo unitario del contratto nazionale, scritto da Giuseppe Sabella. Giuseppe Sabella è qui con noi. Buonasera, Sabella. Buonasera Gianfranco Fabio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sabella è biografo dell'industria, esperto di relazioni industriali, ha scritto già altri libri su questi temi, da Torino a Roma, Attacco al sindacato, uno degli ultimi, e questo libro è dedicato al rinnovo appunto del contratto nazionale dei metalmeccanici, contratto dei metalmeccanici che è un po' da sempre uno dei punti simbolo un po' della realtà dei rapporti tra imprese e sindacati dai tempi dell'autunno caldo in poi, anni 60, anni ormai appartenenti alla storia. Ecco, allora Giuseppe Sabella, perché è importante questo accordo dei metalmeccanici? Ma l'importanza è sintetizzata anche in questo titolo, certamente un po' enfatico, però la rivoluzione sta nel fatto che, insomma, la categoria più vivace dell'intera industria, il cui che rappresenta il 10% addirittura del nostro PIL e 46% dell'industria stessa, oggi tira una riga su rispetto a delle istanze di cui sicuramente una parte delle relazioni industriali condivide da tempo, ma che, insomma, questa parte di cui parliamo e una parte di cui sicuramente la meccanica influente erano un po' indietro. Mi riferisco ai principi della contrattazione di secondo livello, in particolare del welfare, e insomma oggi col contratto metalmeccanico, con questo accordo firmato il 26 di novembre, si tira una riga e si guarda al futuro in un modo molto partecipativo e, dico, in un modo molto compatto ma anche innovativo. Ecco, è forse retorica dire che siamo passati dal conflitto alla partecipazione, cioè dal confronto, della lotta di classe tradizionale, al fatto che in fondo sia imprese e sindacati hanno capito che sono sulla stessa barca e che è meglio andare avanti insieme? Ma senza dubbio questa coscienza è diffusa in altri segmenti, magari lo era da tempo. Diciamo una cosa, che oggi forse, soprattutto anche per via degli incentivi strutturali che vengono messi sulla contrattazione di secondo livello, oggi le parti hanno interesse a trovare degli accordi, perché se trovano accordi accedono a degli sgravi fiscali, quindi la cosa conviene anche. C'è da dire però che oggi più che mai imprese e sindacati dovrebbero guardarsi in faccia e capire che hanno un nemico comune. Questo nemico, tra virgolette, è il fisco. Ecco, un nemico che è il fisco, oltre al fatto di dover affrontare appunto la competizione internazionale. È significativo che in questo libro ci siano alcune pagine come postfazione di Marco Bentivogli, segretario generale della FIM-CISL, e di Fabio Storchi, presidente di Federmeccanica, in cui entrambi guardano appunto a questo contratto come a un punto di svolta, un punto su cui costruire una nuova realtà, un nuovo sistema di relazioni. Ecco, Sabella aveva già accennato al fatto dell'introduzione in questo contratto di alcune novità, il welfare aziendale o di questi, la possibilità di conciliazione tra famiglia e lavoro, nuove possibilità di flessibilità all'interno appunto della struttura del lavoro. Quale è appunto, Bentivogli parla di un contratto di svolta, quali sono i contenuti di questa svolta, Giuseppe Sabella? Ma sicuramente io direi due cose che secondo me sono straordinariamente importanti, cioè il diritto soggettivo alla formazione. Cioè oggi questo contratto riconosce che ciascun lavoratore del comparto ha diritto ad essere formato per un tot di ore, sono 24 nel triennio, quindi 8 ore l'anno, non sono tante, però ci sono imprese che già lo fanno da tempo ed è quella è una media al ribasso, diciamo così, 8 ore. Perché questa cosa è importante? Importante culturalmente, perché noi fino a ieri a livello di politiche attive del lavoro abbiamo concepito la formazione come un qualcosa che arriva nel momento in cui il lavoratore perde il lavoro. Oggi il lavoratore va tenuto sul pezzo non solo perché se lo perde è pronto a rientrare, ma perché se è tenuto sul pezzo è una risorsa in più per l'azienda. Allora è questa la partecipazione, questo è il punto di congiunzione che si traduce in partecipazione. Oggi imprese e lavoratori si guardano in faccia e capiscono che per attraversare il grande mare di Industry 4.0 o si è su una nave solida oppure si rischia di restare indietro nel mondo, e noi abbiamo bisogno di tornare a essere competitivi come lo siamo stati per tanto tempo. La formazione è una chiave, ecco, questo secondo me è un punto estremamente innovativo del contratto, che giustamente Bentivogli paragona alle 150 ore del 73, quando il contratto metalmeccanico del 73 introdusse che cosa? La famosa possibilità per chi non aveva completato il percorso di studi di completarlo. Ecco, questo contratto deriva anche da una storia sindacale che è fatta soprattutto negli ultimi anni, dal 2009 ad oggi, di una grande conflittualità che ha avuto il suo punto, diciamo, massimo nel caso Fiat, che ha portato addirittura a confrontarsi imprese e sindacati nelle aree giudiziarie più che sul fronte dei luoghi dove tradizionalmente si fanno gli accordi. Qual è stato l'insegnamento del caso Fiat che è stato diciamo recepito in questo contratto, Giuseppe Sabella? Ma sicuramente il principio che la ricchezza si distribuisce laddove è prodotta, no? Anche se comunque il caso Fiat la eredita dall'accordo del 2009 che dalla CGIL non era condiviso, ecco perché poi sul caso Fiat e sul contratto di Pomigliano c'è così tanta tensione, perché si esaspera il concetto della produttività del lavoro, no? Cioè, Marchionne promette aumenti di stipendio in presenza di obiettivi raggiunti. Questo è ciò che eredita oggi il contratto, insomma, dei metalmeccanici dal caso Fiat. Però mi permetto di dire una cosa: la grande eredità del caso Fiat è un principio ancora tutto da affrontare, ovvero dopo la sentenza del 2013 della Consulta sul caso Fiat, noi oggi ci troviamo in presenza di 800 contratti nazionali collettivi e di lavoro e a rappresentanze che sono nate come funghi, no? Allora, questo perché la sentenza del caso Fiat, la sentenza della Corte Costituzionale, riconosce rappresentanza anche a chi non stipula accordi aziendali, no? Riconosce il diritto di rappresentanza anche a chi non stipula accordi aziendali. Su questo bisogna stare molto attenti oggi, perché il testo unico sulla rappresentanza che su cui le parti fanno il quadrato e si riconosce diritto di rappresentatività a chi ha a chi ha una rappresentatività di almeno il 5% dei lavoratori, bisogna stare attenti perché il testo unico sulla rappresentanza è un documento che resta all'interno del sistema confederale, ma solo una legge qui può fare chiarezza e riportare un po' di ordine in un mondo dove le rappresentanze stanno sbucando come funghi e ogni giorno ci troviamo in presenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro in più. Ecco, forse c'è un po' di proliferazione appunto sul fronte della contrattualistica, ma tornando un po' ai temi strettamente aziendali, un tema di cui si parla molto in questo periodo è questa industria 4.0, cioè la necessità di dare la possibilità alle imprese di sposare l'innovazione che è sempre più capace di fornire delle soluzioni appunto anche ai problemi di produttività, di efficienza, di qualità dell'impresa. I contratti attuali garantiscono la possibilità di fare innovazione all'interno dell'impresa, anche se l'innovazione porta con sé inevitabilmente la necessità di una maggiore flessibilità, di una maggiore mobilità dei lavoratori. Giuseppe Sabella. Ma prima nella sua domanda, quando mi ha chiesto quali erano le principali innovazioni del contratto, mi sono soffermato sulla formazione perché mi sembra quella più rilevante, però diciamo anche che oggi c'è una totale un totale rimando alla contrattazione di secondo livello per quel che questa può favorire, come dire, innovazioni legate all'organizzazione del lavoro soprattutto, no? E non solo gli aspetti retributivi, chiaramente. Ecco, questo mi sembra un grosso passo che le parti hanno fatto, dopodiché io però dico sempre questo: o le imprese sono capaci di guardare avanti e di lanciarsi verso il futuro, o non saranno le regole a darglielo, ecco. Quindi è un problema sicuramente di applicazione da parte degli imprenditori di queste realtà e soprattutto anche di guardare un po' la flessibilità del sistema di accogliere queste tendenze. Però il sindacato è stato visto negli ultimi anni come un po' un frenatore, come un po' una realtà che limita, che blocca la possibilità di modificare, di cambiare la struttura delle imprese. Sta cambiando anche il sindacato in questa prospettiva? Credo di sì, questa resistenza era dovuta al fatto che chiaramente permettere questa flessibilità alle imprese voleva dire favorire la contrattazione di secondo livello, cosa su cui una parte del sindacato frenava, ma anche la Confindustria un pochino frenava, perché chiaramente si intende trasferire potere dal livello centrale a quello periferico naturalmente, no? Quindi su questa cosa c'erano un po' di resistenze. Oggi siamo in profonda, abbiamo bisogno di avere la massima flessibilità, allora questo accordo tira una riga da questo punto di vista, cioè oggi si guarda la contrattazione di secondo livello come a uno strumento indispensabile per permettere alle imprese di costruirsi quel sistema di regole di cui hanno più bisogno. Ecco, nel libro si parla di bene comune, chi lavora per il bene comune di questo paese sa che questa è una pagina importante. Allora, concludendo questa nostra conversazione sui contratti, sui primi, secondi e terzi livelli di contrattazione, possiamo dare un'occhiata così complessiva, dare un giudizio generale, abbiamo già provato a farlo, ma questo paese può avere la convinzione che l'unità di tutti coloro che creano ricchezza, e quindi i lavoratori, le imprese, le finanze, magari anche le banche, possono contribuire a fare dei passi avanti di cui abbiamo un grande bisogno, Giuseppe Sabella? Sì, credo di sì. Insomma, questo paese nel recente, cioè dal secondo dopoguerra in poi, è stato capace di fare grandi cose. Insomma, siamo diventati tra le 7 potenze economiche del mondo, quindi insomma credo che l'Italia ha delle risorse importanti, al di là di una narrazione dominante che continua a raccontarci come se fossimo degli incapaci. In realtà questo paese ha risorse straordinarie, chiaramente è un paese così piccolo, da una crisi così grande viene ferito a morte, però io credo che appunto queste risorse di cui parlavo saranno capaci di traghettare questo paese verso un futuro migliore di cui abbiamo estremamente bisogno. Grazie Sabella, grazie a questa visione che ci aiuta a guardare all'autunno che abbiamo di fronte con maggiore ottimismo, e quindi salutiamo Giuseppe Sabella ringraziando di essere stato con noi, così come ringraziamo Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione, ricordando il titolo del libro, Rivoluzione metalmeccanica, dal caso Fiat al rinnovo unitario del contratto nazionale, edito da Guerini e Associati, sono 152 pagine per 15,50 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.